Allora, il punto che di mietitrebbie me ne occupo ormai da 10 anni. Allora, le mietitrebbie che abbiamo di produzione europea, le Fala Zürn e la Wintersteiger austriaca, sono quelle piccole, sono mietitrebbie che vengono considerate parcellari, per cui sono quelle che fanno per le prove in campo e tutto. Quanto sono grandi? Hanno una barra di 1,80 m, sono lunghe 3,80 m massimo e alte 2 m, Piccole. sono le più piccole, queste qui di produzione occidentale. Poi ci sono quelle cinesi e quelle indiane. Quelle cinesi sono particolarmente attraenti per via del prezzo, nel senso che una mietitrebbia con una barra da 1,80 m ti viene a costare intorno, parti dagli 8.000 dollari fino ai 20.000 dollari massimo, che diciamo è la fabbrica che costruisce le mietitrebbie per la Kubota e per la Mitsubishi cinese, che fabbrica anche lei una macchina, non ha il battitore orizzontale ma il battitore verticale. Sono macchine piccole, sono macchine facilmente guidabili, quasi tutte cingolate, solo che per la montagna dobbiamo vedere se van bene, perché molti amici che guardano i siti indiani o i siti cinesi dicono: "Ah, ma questa qua c'è scritto che va bene per la montagna". Sì, però loro sono 2000 anni che le montagne le hanno fatte tutte a gradoni piatti, cioè completamente piatti. Il problema è l'idea, Noi però, invece, ecco, il allora, pensiero. sia la Wintersteiger che la Zürn ha la possibilità, pur non essendo autolivellante, per chi non capisce, autolivellante vuol dire che quando miete, taglia il frumento entra dentro, passa da alcuni crivelli. I crivelli permettono, con uno scuotipaglia, di buttare fuori la paglia dietro e di far passare il seme sotto. È chiaro che se tu il crivello ce l'hai così, ti scivola tutto via e il seme lo butti fuori insieme alla paglia. Allora, ci sono alcune mietitrebbie, soprattutto le più grandi, che sono autolivellanti, quando c'è una pendenza si livellano e tiene sempre il crivello in piano, per cui non riesce a non eliminare il seme. La Wintersteiger ci ha detto che può fare le 4x4 e può fare anche il lavoro di mettere dentro un autolivellante anche nella Class, che è la loro più piccola come parcellare. Solo che già così, già semplicemente senza questi accorgimenti, costa 90.000 euro. No, ti spiego la nostra esperienza, appunto, se Certo.